Zici pe rebei moru. Gini, urani. Dar ti se... Mura vei, pe nesli presa, doki sa mi mucele, ki tia sa zbrni, come dira toba. Mi cane, sa mu onia al... Rani ginesio, non ne mu mutani, horno su ogni parun. Se ne so lieta, oh, sa malovra. Perché gli altri hanno lì, gli altri lì, hanno lì, hanno lì. Già, già, ti. Ti ho ma già, ma sta andando in mezzo, perché a tua situazione non ha l'unica tutto. Perché con due pezzi, stanno a casa bene recidivi, io forse. Questo paese, una cupretina, druso dei denunati, io forse. Ma se non resta più da muoce, almeno con un po' di carbutazione. Almeno che è necessario. Io poi. Per quello cosa serve? Ah, bisogna tacere.